Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dopo la bocciatura al Senato sull'emendamento sulla Banca del Sud, adesso stiamo cercando di capire che cosa succederà, una bocciatura che è arrivata per sostanzialmente motivi di regolamento, come ha spiegato il Presidente del Senato Renato Schifani, che ha comunicato appunto la decisione di definire inammissibile dal regolamento l'emendamento sulla Banca del Mezzogiorno come emendamento della finanziaria, perché presentato in aula ma un argomento non discusso in commissione, a malincuore, ha detto Schifani, ma l'abbiamo dovuto rendere e dichiarare inammissibile. Detto ciò, oggi il tema è ancora sull'acconto, o meglio sullo sconto sugli acconti IRPEF dovuti per il 2009. In sostanza viene posticipata il termine di almeno il 20% degli acconti IRPEF dovuti per il 2009. Dovrebbe, da quello che si capisce, sono usciti poco fa alcuni calcoli dei commercialisti, beneficiare soprattutto i titolari di reddito d'impresa, quindi artigiani e commercianti, mentre tra i titolari di reddito di lavoro autonomo, liberi professionisti, il beneficio sarebbe solo a capo dei professionisti con pochissimi costi e quindi con un reddito che è pari al proprio fatturato, quindi dove non ci sono costi in più, e quello che è il fatturato è praticamente il reddito, mentre il beneficio sarebbe praticamente assente per i professionisti che invece hanno un fatturato diverso dal loro reddito e anche molto più modesto per i lavoratori dipendenti, anche perché in questo caso si è capito che è rilevante, funziona l'acconto chiaramente solo se hanno altri redditi oltre a quello del lavoro dipendente, è lì che va a applicarsi infatti l'acconto. Comunque, fermo restando che questi sono soldi poi che dovranno essere dati in primavera, per cui non si tratta, giugno se non ricordo male, più che primavera, non si tratta di una riduzione fiscale ma di un posticipo di quello che è dovuto fiscalmente. Ancora tratteremo nella seconda ora del programma un dato oggi diffuso da chi analizza da sempre gli stipendi degli italiani, mi riferisco a ODM Consulting, che è andato a calcolare quanto sono variati gli stipendi di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti, e anche quanto incidano su questi stipendi i titoli di studio, laureato, non laureato, le differenze tra sesso, addirittura 3.000 euro in media a favore degli uomini, le differenze a parità di qualifiche professionali, incarico professionale, e poco più di 2.000 euro lordi al mese lo stipendio medio di un lavoratore dipendente in Italia. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Partiremo in apertura invece con il dato di oggi sul PIL. Buono, per la prima volta si interrompe la serie negativa, trimestre su trimestre abbiamo il segno più 0,6% nel terzo trimestre dell'anno, che è un dato importante perché si mantiene un meno 4,6% rispetto a un anno prima il terzo trimestre, però un più 0,6% trimestre su trimestre è un dato significativo grazie alla componente, ancora un'anticipazione per cui l'Istat non ha diffuso le voci che hanno contribuito a questo incremento, però si capisce che hanno contribuito soprattutto i servizi e l'industria, mentre in negativo il saldo, diciamo, del settore agricolo. Di questo parleremo in apertura, anche perché nel frattempo sono arrivate anche le previsioni del PIL di altri paesi. 349-238-6666 per i vostri sms. Prima di tutto però, come sempre, la borsa. Borse leggermente positive in tutta Europa, tranne che Parigi, dove si perde lo 0,2%, Francoforte più 0,3% come Londra, l'America è ben intonata, meglio dell'Europa, più 0,7%, e l'Italia più 0,1% a Milano, con in evidenza Bulgari più 4,3%, Campari più 2,3%, Pirelli più 1,80%, Mediolanum più 1,5%, Unicredit più 1%, Luxottica più 0,7% come Atlantia, e invece tra chi più perde segnaliamo Unipol meno 3,80%, Mediobanca meno 1,2%, l'Automatica meno 1,1% come Monte dei Paschi, l'1% lo perde Finmeccanica, ma anche Buzzi, Unicem e Tenaris e Saipem. L'euro è a quota 1,4880, quindi sotto il livello di 1,50. Il petrolio è aperto in calo a New York, sotto, ampiamente sotto gli $80 al barile, a $76,48 al barile. Peggiora il deficit commerciale americano, e peggiora anche di tanto, di un 18%, a 36 miliardi e mezzo di dollari. La differenza tra quanto l'America esporta e quanto l'America, importa è a vantaggio delle importazioni, ecco perché c'è un deficit nella bilancia commerciale di 36 miliardi e mezzo di dollari nel mese di settembre, ed è peggiorato proprio perché sono aumentate moltissimo le importazioni in America nel mese di settembre, il maggior rialzo dal 1993. E segnali altalenanti continuano ad arrivare dall'America, perché oggi il dato sulla fiducia dei consumatori americani, calcolato da Reuters dell'Università del Michigan, è sceso a 66 punti. È il dato peggiore di stime, che lo collocavano almeno a 71 punti. Allora, la ripresa è il nostro tema di apertura. Comunque è arrivata, vedremo quanto poi sarà strutturale e si consoliderà in Europa, nell'area euro, dopo 15 mesi continui di segno meno. Il PIL dell'area euro ha fatto un più 0,4% nel terzo trimestre del 2009, ed è appunto dopo 15 mesi consecutivi, quindi 5 trimestri di fila col segno meno. Il picco a questo punto della recessione, per quello che si è visto, è stato toccato nei primi tre mesi del 2009, quando si è fatto un meno 2,5%. In positivo anche la Germania, più 0,7% nel terzo trimestre, con un meno 4,7% rispetto all'anno primo. E la Francia, un PIL più 0,3% trimestre su trimestre, meno 2,5% sull'anno precedente. E ne parleremo proprio adesso. Ancora due dati però che riguardano in questo caso l'Italia. Allora, le entrate tributarie nei primi nove mesi dell'anno sono calate del 3,3%, 9 miliardi e mezzo in 9 miliardi e mezzo in meno rispetto ai primi nove mesi del 2008, a 280,6 miliardi. E la stessa Banca d'Italia fa notare come stia aumentando il calo delle entrate fiscali, meno 3,5% nei primi nove mesi del 2009 rispetto al 2008, e che il debito sia andato a record a settembre, a quota 1.786,8 miliardi di euro. Allora, sul taglio delle tasse, il vice ministro dell'economia Giuseppe Vegas, nel corso del suo intervento in aula, ha detto: attenzione, la riduzione della pressione fiscale è un obiettivo assolutamente condiviso dal governo e spero che qualcosa si possa già fare dal prossimo anno e comunque entro la fine della legislatura, ma non è pensabile in questo momento operare una riduzione delle tasse, occorre pensare alle coperture finanziarie. Vedo molti sms sulla vicenda del processo breve. Allora, non ci sono oggi grosse novità, continua la polemica soprattutto da parte dell'Associazione Nazionale dei Consumatori, oltre che dei magistrati, perché verrebbero estinti in maniera immediata gran parte dei reati nei processi per i crack Cirio e Parmalat, per le scalate delle banche Anton Veneto e BNL e per corruzione nel processo Eni Power. E dicono ancora ci sarebbe l'impunità certa per truffatori di professione, evasori fiscali, ricettatori corrotti, pubblici amministratori infedeli e incensurati. Però ripeto, oggi, al di là delle dichiarazioni che oggi trovate sulla maggior parte dei giornali, non si registrano nuove valutazioni, nuovi sviluppi. Ancora i dati sulla ripresa economica. Vedo già molte domande anche abbastanza polemiche. In Veneto qui le fabbriche chiudono, gli ordinativi non vanno assolutamente bene. Allora, attenzione, visto che partiamo con questo tema subito in apertura, è chiaro che stiamo ragionando di un dato aggregato, quindi purtroppo dentro è, come sempre, il dato aggregato è una media di trilussa, per cui alcuni hanno due polli, altri ne hanno zero, ed è ovvio che la situazione sia tutt'altro che risolta. Va però a livello statistico segnalato la prima variazione positiva del PIL in Italia dopo anche da noi 15 mesi di segno meno continuativo. Eh sì, perché per 5 trimestri che è continuato il calo del nostro PIL e adesso per la prima volta trimestre su trimestre fa un più 0,6%, il calo rispetto a un anno fa è del 4,6%, meglio di noi fa la Francia che ha visto un più 0,3% e un meno 2,4% rispetto all'anno prima, e anche la Spagna, pur avendo avuto un trimestre ancora negativo, la Spagna meno 0,3%, rispetto a un anno prima il PIL cala dell'1,2%. Come noi, diciamo, la Germania, un po' meglio il dato congiunturale trimestre su trimestre, più 0,7, meno 4,7 il tendenziale rispetto all'anno prima, tutti i dati comunque in questa scheda. L'economia italiana riprende fiato dopo l'apnea iniziata nell'aprile 2008. Dopo 5 trimestri consecutivi in negativo, il PIL è infatti tornato a crescere tra luglio e settembre, archiviando un più 0,6% rispetto ai 3 mesi precedenti, che rappresenta la più forte dalla fine del 2006. A riportare l'economia sul sentiero della crescita sono state sia l'industria che i servizi, mentre, contrariamente ai trimestri precedenti, l'agricoltura ha evidenziato maggiori difficoltà. A questo punto, il dato acquisito per l'intero 2009, ossia il risultato che si avrebbe in caso di una variazione nulla degli ultimi 3 mesi dell'anno, è di un meno 4,8%, un dato che è esattamente in linea con le ultime stime del governo. L'aumento del PIL italiano è stato comunque superiore alla media dei paesi euro, che si è fermata a un più 0,4% rispetto ai 3 mesi precedenti. Quanto ai singoli paesi, la Germania ha registrato un più 0,7%, grazie principalmente alla ripresa di export, costruzioni e investimenti industriali. Ha invece un po' deluso il prodotto interno lordo francese, in crescita dello 0,3%, ossia la metà rispetto alle attese degli economisti. A registrare le maggiori difficoltà è però ancora una volta la Spagna, che ha visto la sua economia arretrare per il 6° trimestre consecutivo, questa volta con un calo dello 0,3%. Allora, vediamo che cosa si riesce a estrapolare da questi dati aggregati. Vedo anche molti messaggi al 349-238-6666 sul tema che tratteremo fra un'ora, cioè gli stipendi degli italiani. Confermo che la media che è uscita di 2.000 euro lordi a lavoratore dipendente. Adesso ne parleremo, abbiate un po' di pazienza. Professor Marco Fortis, buonasera. Buonasera. Lei insegna economia industriale alla Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison, nostro ospite già altre volte perché, come ricordo ogni volta, lei i numeri li conosce veramente e i numeri nel dettaglio. Allora, è difficile disaggregare un dato che è ancora preliminare, lo dico anche a chi scrive, cioè l'Istat non ha diffuso le singole voci, però qualcosa già si riesce a capire. Intanto festeggiamo che dopo 5 trimestri consecutivi di variazione negativa, quindi 15 mesi, per la prima volta si è invertita la rotta. Vediamo poi quanto reggerà. C'è chi scrive: è il famigerato rimbalzo del gatto morto, che è quella battuta americana che si usa per i mercati, quindi lanciando un gatto da un grattacielo è chiaro che quando arriva giù poi un rimbalzo lo fa. Io spero di no, Fortis. Comunque, che cosa si riesce a capire, gatti e non gatti? Beh, questa è una crisi così forte che i gatti che vengono buttati giù dai grattacieli in alcuni casi non rimbalzano neanche, ma fanno dei buchi, come capita alla Spagna e alla Gran Bretagna. Quindi bisognerebbe certamente valutare con grande cautela questi dati, perché da una parte ci dicono che il fondo della crisi è stato toccato, tuttavia la crisi è ancora lunga da recuperare e ci vorranno parecchi mesi, se non anni, per tornare ai livelli di attività normali. E questo purtroppo l'abbiamo capito, nel senso che a questi tassi ci vorranno 4-5 anni, forse 3,5 se le cose andranno bene. Andiamo sui singoli settori per quello che si riesce a capire. Mi sembra abbastanza chiara una tenuta quantomeno dei consumi, della produzione, cioè della produzione industriale, dei consumi, visto che la voce servizi e industrie sono quelle che hanno contribuito a questa crescita, l'agricoltura invece no. Sì, l'agricoltura conta abbastanza, conta poco, il 5%. Nel PIL, quindi diciamo che l'aspetto positivo di questo rimbalzo congiunturale dello 0,6% è che, come ci dice l'Istat, esso è stato soprattutto sospinto da una ripresa dell'industria e dei servizi. È difficile capire fino a che punto le esportazioni si siano sufficientemente abbiano dato sufficienti segnali di ripresa nel terzo trimestre. Certamente i servizi sono soprattutto consumati all'interno, quindi tra industria e servizi è molto probabile che si possa delineare un quadro di ripresa dei consumi interni, cosa che non avviene in questo momento nei paesi dove le famiglie sono ancora molto indebitate, come Spagna, Gran Bretagna, ma anche Olanda. Sono tutti i casi in cui qui i consumi delle famiglie stanno diminuendo ancora, non stanno nemmeno riprendendosi. Allora, io non so se hai avuto modo di sentire il dato che ricordavamo in apertura, cioè il deficit commerciale americano, che a settembre è salito, e anche di tanto, un 18% in più, a 36 miliardi e mezzo di dollari, la differenza tra quanto l'America esporta e quanto importa, tutto a vantaggio delle importazioni. E il comunicato recita: le importazioni a settembre in America hanno visto il maggior rialzo dal 1993, che è una cattiva notizia per l'America e anche per il dollaro, però potrebbe voler dire che si sta risvegliando qualcosa negli Stati Uniti? Qualche cosa sicuramente si sta risvegliando, anche perché le scorte erano state ridotte ai minimi termini. Un dato su cui vorrei richiamare l'attenzione è che nel primo semestre di quest'anno in dollari il commercio mondiale è diminuito di un terzo, cioè è una cosa incredibile pensare che un terzo del commercio mondiale scompaia in un semestre. Chiaramente parte di questa scomparsa è stata dovuta a effetti reali, cioè al rallentamento dell'attività economica, alla caduta della domanda reale, ma una gran parte è stata dovuta a un effetto isterico di riduzione delle scorte, perché tutti nell'ambito del credit crunch, delle aspettative negative che hanno dominato questo periodo, hanno frenato, minimi termini i magazzini. È chiaro che adesso un po' questi magazzini si stanno ricostituendo. Tuttavia un conto è ricostituire i magazzini, e un conto è far riprendere stabilmente la domanda. Questo è il vero problema. E lì ancora non abbiamo indicazioni. Ultimo dato dell'export italiano, quello è fuori dall'Europa. A settembre, dobbiamo ancora aspettare infatti qualche giorno per il dato sulle esportazioni italiane in Europa, meno 15% le esportazioni, meno 29% le importazioni. Da quello che si riesce a capire, professor Fortis, perché oggi parleremo anche dell'operazione del governo sugli acconti IRPEF, ex IRPEF dovuti per il 2009, quindi il fatto che possano slittare in un 20% al giugno del 2010, però da quello che si capisce in questo momento, guardando anche i dati di Francia e Germania sui consumi, ecco, è più la voce consumi sta tenendo, sta ripartendo o è ancora molto debole? Ma io sono molto pessimista ancora sulla voce consumi, non tanto per quanto riguarda l'Italia, dove paradossalmente stiamo andando abbastanza bene, cioè il calo dei consumi da noi è molto meno forte che non in Gran Bretagna e in Spagna. In Gran Bretagna la caduta dei consumi è stata doppia rispetto all'Italia, in Spagna addirittura tripla, in Irlanda di 5 volte maggiore, cioè i paesi dove ci sono debiti delle famiglie i consumi oggi non li fanno più. Il problema vero è che c'è una crisi comunque dei consumi delle famiglie anche nei paesi dove i debiti delle famiglie sono abbastanza contenuti, ma però le aspettative rimangono pesanti, in più la disoccupazione potenziale sta in qualche modo frenando i consumi. Vorrei ricordare che secondo quanto hanno anticipato gli istituti di statistica della Germania e della Francia, nonostante gli aiuti all'auto siano stati molto forti, i consumi delle famiglie francesi nel terzo trimestre sono stati stazionari, cioè non sono cresciuti, e quelli delle famiglie tedesche addirittura sono diminuiti nel terzo trimestre. Questo vuol dire che è difficile far crescere i consumi persino nei paesi dove un po' di risparmi ancora ci sono, figuriamoci in America, in Gran Bretagna, in Spagna, in Irlanda, in Olanda, dove in questo momento c'è un problema di recupero diciamo delle capacità di risparmio delle famiglie per fronteggiare gli alti indebitamenti. Di fronte a questa situazione, a mio avviso, più che pensare ad un rilancio dell'economia attraverso i consumi, bisogna programmarlo attraverso un rilancio degli investimenti. Questo vale per l'Italia, per l'Europa, per gli Stati Uniti, per tutti i paesi del mondo. Ecco, e arriviamo a questo punto che è molto delicato. Allora, intanto oggi in Europa c'è stato un nuovo rapporto della Commissione Europea sui posti di lavoro e continua a crescere in maniera inesorabile la disoccupazione. Si sono persi a settembre 285.000 posti di lavoro, per cui le persone senza lavoro nell'Unione Europea sono a questo punto 22 milioni, praticamente uno stato di medie dimensioni europee. E ci sono 5 milioni di disoccupati in più a settembre 2009 rispetto a settembre 2008. Questo per dire che poi, vabbè, questa crisi è vera, non è finta, non è mediatica, non è colpa del pessimismo. E 6 milioni e 100 mila disoccupati in più rispetto a marzo 2008, quando si ottenne il livello più basso nella disoccupazione europea. Allora, su questo vedo che alcuni ascoltatori scrivono: attenzione, qui le difficoltà non sono tutt'altro che finite, lo abbiamo appena detto. Però vorrei capire una cosa, professor Fortis: se lei dice che non ha molto senso la politica sui consumi, cioè aumentare il potere d'acquisto, perché, così faccio contenti i tecnici che mi blobbano ogni volta che dico questa frase, perché se il cavallo non vuole bere, non beve, basta, vedo che già ridono, però questo vuol dire che le politiche di intervento devono essere tutte concentrate a questo punto su incentivi, perché lei citava quelli dell'auto, ci potrebbero essere incentivi per il legno arredo, per la meccanica, per altri settori in estrema difficoltà? Il problema è che in questo momento gli incentivi, diciamo, ai consumi fine a se stesso, soprattutto in settori già abbondantemente drogati, hanno certamente evitato ulteriori peggioramenti dell'attività economica, hanno frenato anche la crescita della disoccupazione, ma non hanno risolto il problema. Bisogna rendersi conto che la crisi in cui siamo finiti questa volta non è una crisi normale, è una crisi che richiederà dei tempi di adattamento molto lunghi, perché nei paesi dove le famiglie sono indebitate i consumi impiegheranno diversi anni per riprendersi e conseguentemente i paesi che esportavano, come la Germania, come l'Italia e il Giappone, avranno a loro volta dei problemi dal punto di vista dell'export, perché ci vorrà molto tempo affinché si possa ritornare ai livelli precedenti. Noi non abbiamo in Italia o in Germania vissuto la bolla immobiliare finanziaria, però anche noi abbiamo avuto una bolla, è stata quella dell'export. Basti pensare che tra il 2005 e il 2007, cioè nel periodo in cui è stato più forte la bolla immobiliare finanziaria nei paesi anglosassoni, in Spagna, ma anche la bolla energetica in Russia, nei paesi arabi, che ha lanciato i loro investimenti, i loro consumi, il nostro export e quello tedesco sono aumentati del doppio di quello della media degli altri 5 paesi del G7. Se noi fossimo cresciuti come nostro export, anziché del 19,6% tra il 2005 e il 2007, a un tasso che era la metà sostanzialmente, come quello degli altri paesi del G5, noi avremmo esportato in meno circa 33 miliardi di euro. Cioè, in poche parole, noi nel 2007 abbiamo raggiunto un livello di export drogato di quasi 33 miliardi rispetto a quella che era la crescita media degli altri paesi. Scusi, professor Fotti, drogato da che? Perché da quello che drogato so io... dai consumi degli altri. Sì, però è anche la capacità... La capacità dell'imprenditore italiano, delle imprese italiane, di tornare sui mercati, aumentare le quote di made in Italy sui mercati, spostarsi su fasce più alte, meno in concorrenza con Cina e India. Cioè è chiaro che... Ma noi siamo stati bravissimi, infatti, nonostante un luogo comune che ci vedeva in declino, noi abbiamo realizzato in quei due anni, nel 2007 e nel 2007, una performance eccezionale. Faccio un esempio significativo. L'export italiano di macchine per le costruzioni è raddoppiato in due anni. Questo perché siamo riusciti a vendere macchine dappertutto, dalla Russia ai paesi arabi, ai paesi del Sud America, nei paesi avanzati, e questo dimostra una grande capacità competitiva delle nostre imprese. La nostra bolla è stata una bolla molto più innocente di quella degli altri, perché è stata basata sull'internazionalizzazione delle capacità competitive e dei prodotti, non sull'internazionalizzazione dei derivati, dei mutui subprime. Però sta di fatto che se gli altri paesi non avessero consumato al di sopra delle loro possibilità, nemmeno noi avremmo esportato. Cioè, ridetta, l'aver drogato, aver avuto paesi in cui i consumi erano drogati da un'eccessiva facilità a ottenere debiti, quindi prestiti, ha avvantaggiato anche il nostro export, perché chiaramente questi consumi poi significavano anche importazioni in quei paesi di Made in Italy, e adesso anche noi in qualche modo ne subiamo le conseguenze. Devo dire che in effetti da Francia e Germania su questo fronte non stanno arrivando buone notizie, i consumi tedeschi sono ancora in calo, quindi vedremo come andrà il quarto trimestre. Chiaro però quanto lei dice, in questo momento è più importante concentrarsi su politiche di intervento, di aiuto ai settori produttivi, vedi incentivi e quant'altro, che non in politiche strettamente sul reddito delle famiglie, perché se la prospettiva che tu hai è pessimista o comunque attendista, vedi aumentare la disoccupazione, sei incerto sul futuro, io ti posso dare anche uno sconto di 2, 3, 4 punti fiscali e tu questi soldi li metti anche giustamente sotto il materasso o te li tieni in banca, non vai a far ripartire la domanda interna. Grazie a Marco Fortis, docente di economia industriale alla Cattolica di Milano. Buonasera. La borsa. Si chiude bene la seduta, più 0,3%. E a Milano, Parigi invariata, Francoforte più 0,4, Londra più 0,3, l'America guadagna lo 0,85%, adesso l'euro a quota 1,49. I titoli con le maggiori variazioni, in assoluto, cioè i migliori e peggiori, Unilever il peggiore meno 5,4, Sopaf meno 4,5, Beghelli meno 4,2, il migliore Digital Brothers più 10%, RCS Media Group più 5,80. E ancora EMS più 5,7%. Invece guardando i titoli a maggiore capitalizzazione vediamo che il peggiore è stato Unipol meno 3,70, Mediobanca meno 1,3, Lottomatica meno 1,2, Monte dei Paschi meno 1%, come Ansaldo CTS e Finmeccanica. I migliori sono stati Bulgari più 5,1, Campari più 2,1, Pirelli più 2, Mediolanum più 1,7, Unicredit più 1,4, Italcementi più 1,2, Snam più 0,90, Eni più 0,7%. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, la fiducia dei consumatori americani è scesa in maniera inaspettata, è un livello anche non bello, però mi sembra che poi alla fine il mercato abbia tirato dritto. Bulgari. Allora, il mercato, come dicevi tu, dopo un momento di leggera flessione si è ripresa in scia appunto quello che stava avvenendo a Wall Street, che è attualmente positiva, per cui alla fine la chiusura dei mercati è stata positiva per quasi tutte le principali piazze europee. A Milano è andata bene in modo particolare i bulgari, che ha guadagnato il 5,1% all'indomani della pubblicazione dei conti dei primi 9 mesi. La società di gioielli ha archiviato, diciamo, la prima parte del 2009 con un rosso di 33,5 milioni di euro rispetto a un utile di 77,2 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia l'impressione è che il peggio sia ormai passato. Anche l'amministratore delegato Francesco Trapani ha detto di vedere prospettive di miglioramento, e la stessa analisi è stata fatta da un altro gruppo del lusso, Richemont, che ha sottolineato oggi come le attese per questo Natale siano migliori rispetto a quelle del 2008. Quindi, insomma, sul settore del lusso oggi c'è una visione maggiormente positiva. Campari più 2,1%, cos'è? Si avvicina al weekend? Ma più che il weekend che si avvicina è l'onda lunga anche qui dei conti presentati qualche giorno fa. Oggi, fra l'altro, il titolo ha beneficiato anche di un report da parte degli analisti di UBS, che hanno confermato il rating di neutral, ma hanno alzato il target price da 6 a 7,5 euro. Eccoli. Sempre lì, all'UBS con i target price. Morgan Stanley ha anche confermato, visto che qua di target price stiamo parlando, raccomandazione per altri titoli. Però vorrei capire una cosa, per quello che riguarda invece Pirelli e Mediolanum, più 2% Pirelli, qui forse c'è un'indicazione, e Mediolanum, più 1,7%. Allora, l'indicazione c'è soprattutto per Pirelli, che continua ad approfittare delle novità in vista sulla parte immobiliare del gruppo. Insomma, dovrebbe essere abbastanza vicina. Oggi alcuni giornali riportavano la data del 23 come possibile data in cui si potrebbe definire un accordo fra Pirelli Re e Fimit. Pirelli Re è la società controllata appunto da Pirelli, attiva nel settore immobiliare, e Fimit, questa società attiva nella gestione di fondi immobiliari. Al mercato piace molto l'idea che comunque Pirelli si separi in qualche modo dalla parte immobiliare per concentrarsi soprattutto per quello che è il suo core business, quindi le gomme. E quindi appunto da quando è uscita questa notizia, peraltro già nell'aria nelle ultime settimane, sostanzialmente il titolo Pirelli ne ha beneficiato e anche oggi ha guadagnato oltre il 2%. Allora, volete sapere dei conti del Banco Popolare? Non sono ancora usciti, me lo confermi, dovrebbero uscire stasera, da quello che ho capito. Sono usciti i conti del Monte dei Paschi E allora, praticamente l'utile nei primi 9 mesi scende a 400 milioni di euro dai 670 del 2008. Il titolo ne ha, e qui passiamo quindi a chi ha più perso oggi in borsa, ne ha risentito anche se non meno 1,1%. Unipol meno 3,70 invece. Sì, Unipol invece ha risentito maggiormente dei conti che ha pubblicato ieri a borsa chiusa. Diciamo che quello che preoccupa di più in questa fase è soprattutto il peggioramento del comparto danni, dove il combined ratio, il rapporto fra i costi e i ricavi nel comparto danni appunto è salito al 104,7%, quindi i costi sono maggiori dei ricavi rispetto al 98,1% di un anno prima. Certo, sono arrivate rassicurazioni dal gruppo rispetto alla chiusura di fine anno, però questi dati non sono sicuramente piaciuti al mercato. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, mi sembra che... Ah no, un titolo ancora, scusami Guido. RCS più 6,4%, vediamo il dato finale perché questo era relativamente più 5,80 il dato finale. E insomma, anche qui mi sembra di poter dire un effetto dei conti. Anche qui c'è un effetto dei conti e soprattutto del programma di contenimento dei costi varato dal gruppo editoriale, che sembra marciare più speditamente rispetto a quanto era stato inserito nel cronoprogramma. Certo, i conti presentati 2 giorni fa hanno comunque mostrato una perdita di 73,3 milioni, però sembra appunto che questo programma di risparmi stia marciando meglio delle attese. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, il governo ieri ha deciso di ridurre del 20% l'acconto, quanto si dà come acconto IRPEF da versare a fine anno, e la somma, questo è il primo punto, anche perché vedo alcuni un po' di confusione, dovrà essere comunque versata, non è che sia una riduzione fiscale, verrà versata a giugno, nel giugno 2010, quindi si dà in qualche modo una dilazione ai pagamenti delle tasse. Lo sconto interessa soprattutto professionisti, titolari di partita IVA e microimprese che versano l'imposta sulle persone fisiche. Da quello che a questo punto è certo, non dovrebbe riguardare i lavoratori dipendenti a meno che non abbiano altre attività, altri redditi. Pensiamo per esempio a chi ha degli appartamenti che affitta. Il valore complessivo dell'intervento è di circa 3 miliardi e 800 milioni di euro. Professor Tonino Morina, che è docente alla Scuola Superiore di Economia e Finanze ed esperto fiscale del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, poco fa i commercialisti, l'Unione Italiana Commercialisti e dottori esperti contabili, se ne è uscita con alcune stime per cui i lavoratori dipendenti non avranno beneficio, come abbiamo chiarito, ma se per esempio avessero 20.000 euro di reddito da affitto, 10.000 di reddito da incassi di affitto, avrebbero un vantaggio di 760 euro. Se guadagnassero 40.000 euro, avrebbero un vantaggio di 1.340 e via così, solo in caso che vi siano altri redditi. Gli imprenditori, allora, i vantaggi maggiori vanno, insomma, 460 euro per chi dichiara appena 10.000 euro di reddito, ai 960 euro per chi dichiara 20.000 euro di reddito, fino ai 2.000 euro per chi dichiara 40.000 euro e 3.800 euro di acconto, di dilazione possibile per chi guadagna 60.000 euro. Per, chiudo, i titolari di reddito da lavoro autonomo, la sforbiciata sugli acconti consente di conseguire benefici solo per chi ha un reddito sostanzialmente identico al fatturato, cioè non ha grandi costi fissi, perché in quel caso, se con redditi da 20.000 euro il beneficio è di 160 euro, 700 euro per compensi e redditi pari a 40.000 euro. Allora, professor Morina, che cosa resta ancora oscuro? Perché c'è molta confusione. È arrivato il decreto intanto, il testo? Lo stiamo aspettando, il Sole 24 Ore è in prima linea, ma ancora, diciamo, non è arrivato dal governo, quindi parliamo di questa misura, sono 20 punti percentuali in meno rispetto all'acconto, avete detto benissimo, hai detto benissimo sul discorso che non è altro che una piccola riduzione che comunque si dovrà tornare in sede di saldo. Se ad esempio noi abbiamo da pagare un acconto di 9.900 significa il 99% dell'IRPEF, perché ricordiamolo, l'abbiamo detto più volte, riguarda solo le persone fisiche, esercenti imprese, arti o professioni, o, come avete già precisato benissimo, anche i dipendenti, se hanno però altri redditi, dipendenti e pensionati, altri redditi di partecipazione, esempio un dipendente che ha una partecipazione in un'impresa commerciale che ha altri 10.000 euro di redditi o altra natura, naturalmente ne beneficia anche la persona fisica se dipendente o pensionato con altri redditi. Per cui, come stavamo dicendo, se io devo pagare sulla base dello storico dell'anno prima, cioè il debito dell'anno prima, il 99% di 10.000 euro, 9.900, ora a complemento del primo acconto che ho già dovuto eseguire tra maggio e giugno, devo pagare la differenza non più di 9.900, ma arrivare a 7.900, non è altro che il 79% di 10.000 euro. A questo punto arrivato è chiaro che verso 2.000 euro in più rispetto al 9.900, la vecchia misura percentuale fatto come debito 10.000, ma è anche altrettanto chiaro che se il mio debito sarà 10.000 euro, l'anno prossimo, a giugno o luglio, dovrò pagare, se pago 7.900, una differenza di 2.100 euro. Se in effetti avrò i soldi per pagare l'acconto anche sulla vecchia misura del 99%, pagando 9.900 pagherò poi solo 100 euro, quindi, come è stato detto, è un beneficio temporaneo che comunque a giugno o luglio si dovrà chiudere il saldo. Ecco, su questo vedo molte domande degli ascoltatori al 349-238-6666, ma usando l'esempio che ha fatto lei, ma se questi 2.000 euro non li pago adesso ma li devo comunque versare a giugno, alla fin fine il beneficio qual è? Beh, il beneficio potrebbe essere quello di appunto liberare un po' di risorse in questa parte più difficile, sperando che a giugno le cose vadano meglio, soprattutto sotto Natale, fermo restando che questi soldi poi al fisco andranno dati. Che cos'è la cosa che resta più oscura? Perché ieri c'è stato un po' di confusione sul lavoro dipendente, adesso abbiamo scoperto che il lavoro dipendente non è incluso la misura, a meno che, ripeto a chi scrive, non abbia guadagni e quindi dichiarazioni su altri fronti. Il caso più normale, appunto, o che partecipi a una società oppure che abbia redditi da locazione, quindi affitti. Cos'è che resta ancora oscuro, professor Morina? Ma i lati oscuri sono soprattutto il fatto che ancora finora non è arrivato il provvedimento, quindi stiamo parlando un po' sulle anticipazioni date dalla stampa, dal Sole 24 Ore, dal governo stesso. Lati oscuri sono che se questa misura di abbattimento che riguarda le persone fisiche può essere estesa all'IRAP, ma da quello che sappiamo è limitata esclusivamente all'IRPEF, quindi l'IRPEF è l'imposta sul reddito delle persone fisiche come imprenditore, lavoratore autonomo, dipendente o pensionato. Non ci sono alcuni effetti ovviamente sull'addizionale regionale e comunale, perché quelli innanzitutto non ci sono acconti da versare a novembre e comunque l'unico acconto che si versava era quello del mese di giugno e di luglio. Il problema oscuro ora è un altro, giustamente, se parliamo di lati oscuri: se il sostituto d'imposta è obbligato, qualora il dipendente o pensionato da lui assistito ha anche altri redditi, non so, di partecipazioni di imprese, e deve pagare l'acconto, deve fare la trattenuta, perché come sappiamo se io ho fatto il 730 2009 a maggio o giugno di quest'anno, il mio datore di lavoro, al quale ho dato e delegato di fare la trattenuta IRPEF, naturalmente sarà complicato fare i calcoli da parte del sostituto d'imposta. C'è da dire che le case software sono un po' infastidite da questa misura, perché dovrebbero dare i nuovi programmi, le nuove, diciamo, metodologie di calcolo, per cui alcune volte, tornando al discorso, che si tratta soltanto di una riduzione che comunque va restituita poi a giugno-luglio, probabilmente molti contribuenti, se hanno i soldi naturalmente, potrebbero anche non fruire di questa mini riduzione e pagare tutto l'acconto adesso. Chiarissimo anche quello, è vero, hanno ragione gli ascoltatori che dicono comunque di fatto è una rateizzazione dell'acconto, cioè una parte la si paga più avanti. Grazie a Tonino Morina, un professore presso la Scuola Superiore di Economia e Finanze. Buonasera a tutti. Seconda parte di Focus Economia e parliamo adesso del reddito degli italiani. Vedo già, sono già arrivati, visto che l'abbiamo annunciato un'ora fa, molti sms che contestano il dato diffuso oggi, cioè una retribuzione lorda media di 2000 euro per lavoratore dipendente, con soprattutto la cosa interessante le variazioni 2008 sul 2007. A fare i calcoli è stata Unioncamere che ha appena pubblicato il rapporto domanda di lavoro e retribuzioni delle e nelle imprese italiane realizzato da ODM Consulting, che noi spesso sentiamo proprio per capire come si muovono gli stipendi degli italiani. E tra l'altro, insomma, la differenza non è solo tra 2008 e 2007, ma anche tra salari maschili e salari femminili, purtroppo, e anche a seconda del titolo di studio di cui si dispone e dell'età in cui si lavora, a parità chiaramente di funzione. Allora parliamo di stipendi. Nel 2008 la retribuzione media dei lavoratori dipendenti di aziende private è stata di 25.500 euro lordi, due terzi però, cioè 10 milioni di lavoratori, percepiscono uno stipendio inferiore a questa quota. Retribuzione media degli uomini, 26.600 euro lordi contro i 23.500 delle donne. Si è ridotto leggermente lo scarto, ma resta, a mio avviso, ancora inaccettabile, quasi il 13%, 3.000 euro lordi di differenza a parità di mansione se sei uomo o se sei donna. 6 assunzioni su 10 fatte dalle piccole e medie imprese. Si è ridotta invece la propensione delle imprese ad assumere personale giovanile al di sotto dei 24 anni. È cresciuta anche di tanto, il 12% la domanda delle imprese ad assumere figure tecniche specializzate. E poi le tendenze, che sono la cosa che personalmente più mi interessa. Ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento chi ha curato concretamente questa ricerca, il professor Mario Vavassori, che insegna gestione aziendale al Politecnico di Milano ed è presidente di ODM Consulting. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, professor Vavassori, torniamo a parlare di stipendi, e al di là degli acconti IRPEF e degli sconti sugli acconti IRPEF. Prima domanda, io non vorrei fare tutto l'approfondimento sulla polemica 2000 euro lordi, sì no, come si arriva a questi 2000 euro lordi, così tagliamo la testa al toro? Il calcolo è un calcolo alla prelussa, insomma, nel senso che sono 2000 euro lordi per tutta la popolazione considerata, che è di oltre 15 milioni, 16 milioni di persone. Va detto che questi 2000 euro lordi corrispondono a circa 1.350-1.400 euro netti, quindi che è il reddito medio che noi del lavoratore dipendente privato, del lavoratore dipendente privato, del settore privato. Allora, ancora le tendenze, perché qui iniziamo a notare qualcosa. Continua, se ho ben capito, visto che voi come osservatorio guardate, fotografate gli stipendi degli italiani su base semestrale da anni, a ridursi il divario, la differenza retributiva e quindi in busta paga tra gli operai e gli impiegati. Sì, il dato. Ma si riduce, mi scusi, e si riduce perché aumenta lo stipendio degli operai o perché diminuisce quello degli impiegati? Non è la stessa cosa? È un processo combinato, un combinato disposto che mette insieme un po' di diminuzione di quello degli impiegati e un po' di aumento di quello degli operai. Anche se in questo momento però bisogna dire che gli stipendi sono sostanzialmente fermi, ma è naturale, insomma, nella situazione in cui siamo è molto più importante difendere, diciamo, tenersi il posto di lavoro che creare dei conflitti sullo stipendio. Noi abbiamo avuto nel 2008 un incremento di 1,7, nel 2009 abbiamo un incremento intorno al 2%, cioè sostanzialmente anche l'anno in corso non ha cambiato radicalmente la situazione, anzi negli ultimi tre anni abbiamo un sostanziale appiattimento. Abbiamo avuto nel 2005 e nel 2006 un incremento, però erano anche gli anni in cui l'inflazione procedeva con una certa velocità. Abbiamo avuto poi l'anno particolare del 2008 con un'inflazione molto elevata, intorno al 4-4,5%, che si è mangiato tutto l'incremento che c'era stato negli anni precedenti. Quindi siamo di nuovo da capo. Vorrei concentrarmi su altri elementi che sono e rappresentano un discrimine tra gli stipendi, anche qui a parità di mansione, chiaramente, se no di cosa stiamo parlando. E si chiamano età anagrafica e titolo di studio, perché anche qui le tendenze vengono confermate e anche irrobustite. Ma l'età è tradizionalmente è un elemento di differenziazione. Mm-hmm. Noi abbiamo inserito in questo rapporto una cosa molto interessante, che mette insieme l'età anagrafica e in qualche modo la scuola, il tipo sì. di scolarità. Noi abbiamo, se noi fermiamo le cose oggi, uno che ha una scuola, che ha la scuola dell'obbligo, ha una carriera, diciamo, retributiva dall'inizio della sua carriera alla fine della sua carriera di 24, più 25%. Uno che ha una qualifica arriva ad avere un più 51 a fine carriera, uno che ha un diploma arriva ad avere quasi il più 90 e uno che ha una laurea arriva ad avere il più 179 a fine carriera, fermando le cose così come sono oggi. Questo ci dice di fatto che l'istruzione comunque rappresenta un veicolo importante per una progressione retributiva più sostenuta. Mm. Quindi questo è un elemento credo fondamentale. L'altro elemento invece riguarda la differenza nel momento delle assunzioni. Cioè, quando noi inseriamo un giovane in azienda, un giovane di 24 anni, di 25 anni oppure soprattutto i giovani laureati, noi vediamo che le differenze retributive sono abbastanza un segno dell'importanza che l'azienda assegna a questi portatori di scolarità. Sì. Ad esempio la differenza tra un diplomato e un qualificato è di 5 punti. Prego. No, dico, perché dite che si fa più carriera nei servizi che nell'industria? Questo è un dato, abbiamo sfatato una cosa che tradizionalmente si usa dire, cioè che l'industria è quella che ti dà più reddito, no? Perché ti dà più continuità, eccetera. A partire da alcuni anni a questa parte invece il fenomeno è esattamente il contrario. Mm-hmm. Noi abbiamo dei servizi, soprattutto dei servizi avanzati, che danno più reddito dell'industria, del lavoro dell'industria. Mm-hmm. Il mix di popolazione, diciamo, industriale ha mediamente un valore leggermente più basso. Mm-hmm. Dell'industria. Le stavo dicendo una cosa molto interessante sulle lauree soprattutto di primo livello e di secondo livello. La laurea di primo livello, ad esempio, è pagata come il diploma, viene praticamente omologata al diploma. Nelle buste paga delle imprese, certo. Esatto, mentre la laurea specialistica rappresenta il vero salto di qualità, è più 16, mentre non so, una laurea di 3 anni è più 1 rispetto al diploma. La laurea specialistica è più 16. Questo vuol dire che le aziende in qualche modo oggi stanno un po' valorizzando i laureati, non sono ancora in grado di valorizzare i laureati di 3 anni, ma stanno valorizzando i laureati di 5 anni. Questo è un po' un paradosso della situazione, perché noi abbiamo fatto la riforma universitaria perché i laureati di 3 anni poi entrassero in azienda e lì imparassero il mestiere in qualche modo. Questa cosa le aziende non l'hanno ancora imparata. Sì, che tra l'altro in qualche modo va nella linea che voi avete registrato sul fronte delle assunzioni, ossia si è ridotta dal 16 al 9% la propensione delle imprese ad assumere personale giovanile, quindi al di sotto dei 24 anni, mentre è aumentata di più del 12 la domanda di figure tecniche specializzate. Sì, c'è un aumento della domanda proprio di professioni alte, di professioni con alto contenuto. Grazie al professor Mario Vassori per questo aggiornamento. Appunto, ripeto, oggi pubblicata il rapporto ODM Consulting, domande di lavoro e retribuzione nelle imprese italiane. Ultimo tema, o meglio aggiornamento per quello che riguarda la politica e la finanziaria, che dove era atteso da questo punto di vista un via libera che doveva arrivare appunto dal Senato. E allora colleghiamoci con Palazzo Madama, anche perché c'era stato quel blocco con l'inammissibilità delle norme che riguardavano la Banca del Sud e anche i tartufi. Ora, quelli dei tartufi, diciamo, secondo me ce ne potremmo fare una ragione, anche se è tempo di Trifulao, quelli della Banca del Sud invece è un'altra questione. E vabbè, Vincenzo Miglietta in collegamento con noi da Palazzo Madama, buonasera. Buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, Trifolau a parte, poi c'è Tartufo Nero, Tartufo Bianco, c'è quello anche lei, governo e opposizione. Che è successo sulla Banca del Sud? E invece è arrivato il via libera alla finanziaria al Senato, no? Sì, è così, via libera dell'Aula di Palazzo Madama, 149 voti a favore, 122 i contrari, si sono astenuti i senatori che fanno riferimento sempre nel centrodestra al Movimento per l'Autonomia di Lombardo, astensione questa legata proprio al fatto che non è passata la Banca del Sud. Sì, l'emendamento in questione non è stato dichiarato ammissibile dallo stesso Presidente del Senato Schifani, perché ha spiegato non c'è stato il tempo sufficiente per discuterne in Commissione Bilancio, e quindi un intervento così importante, una misura così importante non può andare direttamente in aula. Queste le parole di Schifani, se ne riparlerà tra pochi giorni alla Camera, dove la legge finanziaria è attesa. Per quanto riguarda le novità di giornata, possiamo dire che è stato approvato prima in commissione e poi in aula il maxi emendamento del relatore Saia, un emendamento omnibus. Tra le misure più importanti ricorderei l'aumento di 100 milioni all'anno dal 2010 dei fondi per il comparto sicurezza e difesa, e in arrivo poi le risorse derivanti dalla vendita di un determinato numero di immobili confiscati alla mafia. In una battuta, Vincenzo, questo emendamento sulla Banca del Sud potrebbe essere introdotto nella fase di discussione della Camera, e che vorrebbe dire che poi torna al Senato la legge? Sì, assolutamente così. Okay. Quindi se ne parlerà alla Camera e poi ci sarà di nuovo il voto a Palazzo Madama. Mentre per quello che riguarda le norme sui tartufi? Per quanto riguarda le norme sui tartufi, sono state escluse qui al Senato, ma non è escluso quindi che, essendo una micromisura così definita, venga reintrodotta anch'essa. Bravissimo Vincenzo, buon lavoro anche Vincenzo Miglietta, mai impreparato. Da Sebastiano Berisioni un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, a Filippo Reggi in regia, a voi in ascolto l'auguro di un buon fine settimana. Vi do l'ultimo dato su Wall Street, così vi faccio contenti: più 1%, Milano più 0,3%. Noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.